in primo piano. Bentrovate le ascoltatrici, gli ascoltatori, la rassegna stampa in studio Angelo Miotto. Partiamo subito e vediamo i titoli delle testate. Oggi qui in studio da Repubblica, il PD serve un governo più forte. È una pagina molto composita quella di Repubblica oggi, vediamo che cosa succede. Alfano salvo, dal Kazakistan a parti l'ordine, prendete quella donna. Questo è il sottotitolo al titolo che apre il giornale. La fotografia centrale per il processo Ruby Bis, tutti condannati, 7 anni a Fede Mora, 5 alla Minetti. La spalla invece è per quanto riguarda l'argomento della CIA, schiaffo all'Italia, già in America l'ex agente CIA del caso Abu Omar, come avete sentito Panama lo ha rilasciato. E invece nello spazio degli editoriali troverete, oltre a Carlo Bonini e Fabio Tonacci, che tornano in realtà su una ricostruzione, quello del cablo da Astana che disse deportatela, e qui stiamo ancora girando intorno all'affare Alfano, alle analisi del personaggio, la normalità deviata con Stefano Rodotà, e Francesco Merlo invece che parla dell'angelino di Mezzato, ovviamente riferendosi al vice vicepresidente. Ancora il taglio basso di Repubblica, lui è famoso e mi picchia, io lo denuncio su Facebook, l'avete sentito nel giornale radio questa notizia, e il reportage Resurrezione e Catastrofe, due facce di Detroit. Detroit ovviamente oggi tiene banco dopo l'annuncio del fallimento della città che è venuto nelle scorse ore. I giornali, i principali giornali hanno un reportage, un'analisi della situazione. Lasciamo Repubblica, andiamo a vedere il Corriere della Sera invece. Governo Letta cerca rilancio, lo troviamo di taglio medio ma con un bel bold, un bel grassetto che lo fa spiccare sulla pagina, mentre la vera apertura è Ruby Bis, 7 anni a Fede Mora, indagini su Berlusconi e i suoi illegali. La vignetta di Giannelli, c'è nipote nipote e ci sono due personaggi, il primo dice Mora e Fede condannati per colpa della nipote di Mubarak, e l'altro risponde Alfano salvato per merito del nipote di Letta. È Giuseppe De Rita a ragionare sulla forma partito e che cosa dovrebbero fare i partiti in questa congiuntura storica, lo vedremo fra poco, mentre la fotografia è per Dolce e Gabbana. Oh, Dolce e Gabbana tengono ovviamente banco sui giornali oggi, e sul Corriere qualche cosa di più, perché poi a pagina 23, se non mi sbaglio, andiamo a vedere subito, segnaliamo il fatto che hanno comprato ben due pagine del Corriere. Appunto la prima, quella sulla sinistra con il logo Dolce Gabbana, sono pagine molto eleganti anche evidentemente dal punto di vista grafico, molto bianche, con un comunicato dove Dolce Gabbana dicono che cosa guadagnano e quanto pagano di tasse, e poi l'altra pagina invece con un lungo comunicato dei tre avvocati di Noia, Taglioretti e Simbari che firmano il loro punto di vista, ma in realtà è anche l'occasione poi per addentrarsi sulle politiche di Milano e la moda per quanto riguarda il Corriere, con Gian Giacomo Schiavi che firma Dolce Gabbana, la serata di 3 giorni che sorprende Milano. Lasciamo il Corriere, andiamo sulla Stampa. Ruby Bis, tutti condannati, altri guai per Berlusconi. Questa è l'apertura, la foto grande, davvero grande oggi sulla Stampa. Denuncia shock sul web, così lui mi picchia, la compagna di Massimo Di Cataldo, per le botte ho perso un bambino, il cantante, realtà alterata, ha risposto. E poi Gianluca Nicoletti scrive Facebook, il coraggio di quelle foto, ovviamente il tema di discussione, ma anche in rete già dalle scorse ore, da quando è uscita la notizia, appunto, se al di là della notizia stessa, se Facebook sia il luogo adeguato per questo tipo di comunicazione, quindi anche sul Medium. Schiaffo all'Italia, l'agente CIA che era più buono era già negli Stati Uniti. Ecco qua di spalla la notizia, mentre se il governo preferisce non sapere, si ritorna ancora sulle vicende degli scorsi giorni della crisi che è arrivata sui banchi del governo, e Vladimiro Zagrebelsky in questo caso a scriverne. Non vogliamo l'Europa tedesca, Wolfgang Schäuble, il ministro di Berlino, che interviene in queste che sono le interviste che il gruppo Europa, che di cui fa parte oltre la Stampa, Le Monde, Il Paese, Il Guardian e altri giornali, viene pubblicata oggi su Il Quotidiano Torinese, diretto da Mario Calabresi. Abbiamo poi una curiosità, ma non soltanto, la storia, Verga salvi manoscritti da 4 milioni e invece Gramellini, che a quanto pare si congeda per il periodo di vacanze, da quanto capiamo da questo Buongiorno, e che però torna sui fatti di Dolce e Gabbana. Inizia così: anche ieri in Italia diversi negozi hanno chiuso per eccesso di debiti e di creditori insolventi. Invece i negozi milanesi Dolce Gabbana hanno chiuso per l'indignazione, come si può leggere in italiano e in inglese, Closed for Indignation, sui cartelli delle loro vetrine ostinatamente sigillate. Riapriranno fra 3 giorni, la coincidenza evangelica si presume involontaria, affinché i clienti inconsolabili possano meditare sull'ingratitudine umana, reincarnatasi nelle fattezze di un assessore di Pisapia che ha rinfacciato a D&G la condanna in primo grado per evasione fiscale. Fate schifo, ha scritto G in un breve messaggio prodigo di esclamativi, sono 3 punti infatti di esclamazione, e in quel plurale fin troppo ampio per un solo assessore avrà inteso inglobare in tutti i radical chic che si ostinano a considerare le sentenze più rilevanti dei fatturati. Così Gramellini dalla prima pagina della Stampa. Il Sole 24 Ore, in arrivo nuove regole per gli appalti, questa è l'apertura, prima sia il decreto del fare, incentivi ai macchinari, spesometro facoltativo, c'è una guida al decreto con una bella grafica. Abbiamo poi il taglio medio dal G20, una stretta anti-elusione, via libera dal vertice di Mosca, il piano per evitare l'uso distorto dei trattati sulla doppia imposizione, c'è troppa volatilità, i grandi preoccupati dall'exit strategy adottata dalla Fed, la Federal Reserve. E abbiamo ancora il caso Dolce Gabbana, qui siamo già verso fondo pagina, Milano è il caso, se la capitale della moda nega la libertà di impresa. Di spalla i mercati e la politica, privatizzare non svendere, ovviamente il titolo si riferisce alla notizia delle previsioni che vi possa essere una svendita di beni dello Stato, di società dello Stato, che è stata fatta balenare e qualcosa di più anche dal ministro Saccomanni. Il processo Ruby finisce invece in apertura di spalla a destra, 7 anni Amore e Fede, 5 Nicol Minetta, e ancora qui abbiamo poi lo spazio delle notizie, ma segnaliamo il punto di Stefano Folli, PD i giorni più difficili. Avvenire, il giornale della conferenza episcopale italiana apre con evitate l'altra crisi, no alla mozione anti Alfano, ma il PD chiede un tagliando, così lo chiama Avvenire, riportando appunto le richieste del segretario pro tempore Epifani. Ecco la verità su Stamina, invece è il taglio medio del seministeriale che svela come nato l'inganno sulla cura. E di taglio basso, dicevamo, Detroit, ecco anche su Avvenire, sprofonda in un buco di 20 miliardi, salvate l'industria dell'auto, chiude la città. Nella seconda parte della rassegna stampa vedremo invece pagina 3, adesso la citiamo soltanto per dirvelo, per annunciarvelo, la locomotiva tedesca ha fame di stranieri, sono numeri davvero impressionanti quelli che riguardano la percentuale di persone che arrivano da fuori Germania per lavorare appunto non solo nella capitale tedesca ma anche su altre città del territorio tedesco, e Paolo Lambruschi ci racconterà perché e come fanno soprattutto a reggere questo tipo di richiesta e di domanda. L'Unità, Alfano resta ma per poco, un titolo tutta pagina, Epifani, 2 punti, serve un tagliando al governo, Zanda, 2 punti, il ministro deve decidersi, si parla insomma di rimpasto. Alta tensione nel PD, teniamo aperto il caso, i democratici e il Viminali, e poi abbiamo una fotografia grande in centro pagina che invece riguarda Ruby, tutti condannati al PM gli atti del CAV, del Cavaliere. Abbiamo ancora in questa prima pagina il ricordo di Pietro Grasso, Presidente del Senato, sull'eredità di Borsellino, sono le ore del ricordo, e poi il caso, ovviamente la gente c'era, il caso Mar è volato negli Stati Uniti, come dicevamo sull'economia, vendita dei gioielli, bufera su Saccomanni, valorizzare le imprese pubbliche, poi la rettifica. Il Fatto Quotidiano, il re innominabile, e chi è se non il Presidente della Repubblica, e se la piglia il fatto con quanto è accaduto, cioè che Piero Grasso in aula abbia detto appunto di non citare il capo dello Stato. Taglio medio, Fede, More, Minetti condannati, indagate B, Ghedini e Longo, questo è il taglio medio del fatto, mentre al piedi pagina troviamo Saccomanni pronti a svendere Enel, Veni e Finmeccanica. Abbiamo carcere d'inferno della Russia, arcipelago Putin, metodi KGB, violenze, lavori forzati, e poi il caso delle foto su Facebook, ridotta così dal mio compagno Massimo Di Cataldo, con anche la fotina che è stata presa dal social network. Marco Travaglio, non nominare NPLTN, cioè Napolitano, invano sulla prima pagina. Il manifesto, il paese di Pulcinella, dopo il Kazakistan anche Panama, beffa le autorità italiane, in nemmeno 48 ore consegnato agli Stati Uniti l'ex agente CIA Robert Ledi, condannato a 9 anni per la rendition di Abu Omar, la Farnesina quasi si scusa per il disturbo, due punti, virgolette, rispettiamo la decisione, chiuse virgolette, ma lo scandalo non sono gli altri, siamo noi, dice il manifesto. La fotografia grande della pagina è per un terzetto, il terzetto sul velluto rosso rappresentato da Angelino Alfano, Enrico Letta e Emma Bonino. Letta fa scudo ad Alfano, chiede chiarimenti al PD. Luca Fazio in taglio basso va a scherzare con Dolce e Gabbana, una brutta lezione di stile. Il titolo già si capisce insomma come qual è il taglio che dà Luca Fazio. Sinistra, quattro proposte per ricostruire il campo. Giorgia Raudo e Giulio Marcon che propongono dalle colonne manifesto, da pagina 1 a pagina 15, un dibattito per il futuro. E poi c'è una parte dedicata dal manifesto, la vedremo poi, la citeremo poi, al G8 del 2001. Sono passati 12 anni, oggi è il 20 di luglio, una data nefasta comunque sia per la morte, l'uccisione di Carlo Giuliani. Andiamo a vedere ancora altri titoli. Il secolo XIX, già che parliamo di Genova, feste di Arcore, la stangata, questo è il titolo. Parole, parole, parole. PD durissimo contro Alfano al Senato, ma vota compatto per salvare il ministro. E poi la fotografia anche qui della denuncia shock su Facebook. E in prima pagina le carte, così la polizia kazaka intimò gli italiani di rimpatriare Alma e sua figlia. Il messaggero, solo l'apertura, governo, il PD chiede il rimpasto, Libero, il governo fa i saldi, signori, si vende. La foto è per la signora Nicole Minetti, a Milano è pericoloso fare i testimoni. Mentre vediamo il giornale che dice liberato un assassino ma Fede mora in cella, questa è la scelta del giornale per rispondere alla sentenza di primo grado. Il giorno Alfano salvo, Letta respira. E poi ancora infine la Gazzetta dello Sport, il giornale rosa a tutto Benitez, questa è l'intervista esclusiva che presenta oggi, mentre dramma Villanova, notizia che viene riportata anche da altri giornali, Tito deve lasciare, ricomincia la lotta al cancro, ora Barcellona cerca un tecnico. Meteo. In primo piano. Rieccoci con la rassegna stampa, ancora in studio Angelo Miotto. Allora andiamo ad entrarci un po' negli articoli, negli editoriali, anche nella composizione delle pagine dei giornali. Partiamo dal quadro politico di governo, giornata importante ieri. In ogni caso andiamo a vedere che cosa ne pensano sul Corriere, su Repubblica, soltanto che sulle 24 ore. Diamo qualche indicazione anche sulla composizione di questi giornali. Siamo sul Corriere. Dicevamo che il Corriere scrive: Governo Letta cerca il rilancio, bocciata la sfiducia ad Alfano, Epifani servirà un tagliando. Pagina 2 e 3, Alfano non la mozione, Letta un atto di fiducia, le fotografie sono per i complimenti che si scambiano fra i banchi dopo il discorso di Letta e il voto che salva tra virgolette Angelino Alfano, lo stop di Palazzo Chigi al fuoco amico. Ancora andiamo avanti, pagina 4 e 5 del Corriere, Epifani rimpasto, a settembre servirà un tagliando qualità, silenzio e tregua, siamo a pagina 5, la via di Renzi verso la segreteria, la fotografia in questo caso è per il sindaco di Firenze insieme al cancelliere, alla cancelliera tedesca e stiamo parlando dello scorso 11 luglio, Berlusconi chiude il caso con gli applausi, siamo a pagina 6 e Fil Viminale casella vietata nel possibile scambio di poltrone, pagina 7, per dirvi che le prime 7 pagine del Corriere sono dedicate alla giornata politica e poi si prosegue ovviamente con la questione giudiziaria, per cui ci sono i 7 anni Amore e Fede, 5 Nicole Minetti, insomma di politica si va avanti ovviamente nelle prime pagine oggi. Andiamo a vedere però qualche cosa di più, dicevo, della composizione. Innanzitutto andiamo a vedere qualche cosa che riguardi non soltanto la politica stringente di queste ore, ma la crisi generale della politica. Ed è Giuseppe De Rita con la sua penna che firma l'editoriale 5 condizioni a soddisfare, salvati i partiti anche da se stessi. Nerita fa una iniziale analisi che saltiamo per questioni di tempo, ma andiamo al centro. Queste cinque condizioni da soddisfare, quali sono? Scrive: fare partito per farne strumento della politica sembra oggi dannatamente difficile perché impone cinque scelte decisive. Anzitutto impone qualche aggettivo che dia un senso di condivisione e appartenenza. In secondo luogo c'è bisogno di individuare il blocco sociale di riferimento. Non basta una condivisione d'opinione necessariamente volatile, bisogna capire di quali componenti sociali si vuole fare interpretazione politica e rappresentanza istituzionale. In terzo luogo serve almeno un'idea di forma partito, assembleare, federale, burocratico, che si voglia. E da tale necessità ne discende un'altra, quella di definire regole certe e costanti nel tempo, perché senza di esse si naviga a vista con spinte e controspinte di ogni tipo. Infine, quinta esigenza, c'è bisogno di un programma, magari non di un lungo elenco delle cose da fare, ma di interpretazione e orientamento dei fenomeni e dei processi che attraversano la società italiana in questo momento di intensa contraddizione globalizzazione. Finale, forse uno sforzo di ripensamento va fatto, magari in parallelo alle revisioni istituzionali oggi di maggior moda. E così Giuseppe De Rita dà un prezioso consiglio ai partiti se si volessero in qualche maniera riformare. Il Cavaliere non cederà al Viminale, restiamo sulle colonne del Corriere della Sera e Francesco Verderami nella sua rubrica Sette Giorni. L'idea del rimpasto è al tempo stesso una necessità, è una professione di ottimismo, l'idea che le larghe intese sopravviveranno al giorno del giudizio, che la Cassazione sarà benevola verso il governo oltre che verso Berlusconi. Andiamo a pagina 7 del Corriere, eccoci qua, scrive tra l'altro Verderami: evocare un tagliando in autunno per il governo è quindi un modo di guardare al futuro, di esorcizzare ciò che sta per avvenire, se non fosse che i democratici, puntando a rimescolare le cariche nell'esecutivo, vorrebbero inserirci anche il ministro dell'interno. Allora il quadro cambia e si intuisce perché il Cavaliere la viva come una manovra ostile, il tentativo di usare Alfano come un cavallo di Troia per affondare Letta, colpendo il PDL, destabilizzando l'uomo di punta al governo per il centrodestra fino a delegittimarlo. Già il caso Kazako ha duramente colpito il titolare Viminale nel suo core business, cioè l'affidabilità istituzionale, e non c'è dubbio che il lavorio ai fianchi sarebbe un modo per completare l'opera per distruggere l'immagine del segretario del partito. Abbandoniamo il Corriere, andiamo sul Sole, qui è Stefano Folli con il punto PD, i giorni più difficili, andiamo direttamente a pagina 13 dopo che è partito in prima e vediamo cosa ci dice Stefano Folli. Stanno litigando i miei pollici, ma ce l'abbiamo fatta, eccoci. Al PD piacerebbe la carta d'impasto, ma Berlusconi oggi non ha interesse. Scrive: il capogruppo Zanna ha gettato un sasso nella cristalleria affermando che il ministro dell'interno non è in grado di reggere al carico di lavoro, essendo al contempo segretario del PDL e vice premier. Troppa fatica per una giornata di 24 ore. L'argomento è surreale, più da medico che da politico, ma la sostanza è chiara. Zanna ha invitato Alfano a lasciare il Viminale. Dedicandosi alle altre due attività, sarebbe necessario un ripasso di governo, ma in ogni caso, ha detto Epifani, il governo, dopo la pausa estiva, dovrà fare un tagliando. Finale del ragionamento. Oggi, nella nevrosi di un sistema politico sempre più malcerto, Berlusconi non può, non vuole lasciar cadere Alfano, quantomeno non prima di aver visto la conclusione del suo processo in Cassazione, forse nemmeno allora. Stando così le cose, è meglio aspettare settembre. Nel frattempo, poiché un gesto di dignità è indispensabile, sarebbe almeno il caso di allontanare dall'Italia l'ambasciatore kazako che per giorni l'ha fatta da padrona al Viminale dintorni. Un piccolo scatto d'orgoglio, almeno quello. A proposito di scatti di orgoglio, c'è parecchia indignazione perlomeno nelle titolazioni o in qualche editoriale, poi vedremo se è una questione che si ferma alla giornata di oggi oppure se proseguirà in qualche maniera anche sulle testate, per il rilascio dell'ex agente della CIA che era stato condannato in Italia per la questione del caso Abu Omar. E abbiamo Repubblica, schiaffa l'Italia, già in America l'ex agente CIA del caso Abu Omar, e Federico Rampini che commenta con l'umiliazione dell'alleato. Ma andiamo a vedere pagina 8 e 9 perché sono interessanti da raccontare in questo senso. Ci arriviamo sulla spinta di altre due pagine che sono invece deportate, la Shalabayeva, l'ordine arrivato da Astana che inchioda Alfano e i suoi, con tanti documenti pubblicati in questa che è la ricostruzione e il retroscena di Carlo Bonini e Fabio Tonacci, pagina 6 e 7, ed eccoci a 8 e 9. Buomar, schiaffo all'Italia, la gente ci attorno in America, salta l'estradizione a Panova, c'è una immagine della gente Seldon Lady, c'è l'immagine di Abu Omar, c'è un'intervista, scusate, al procuratore aggiunto di Milano Pomarici. Solo noi magistrati abbiamo affrontato la vicenda col giusto rigore. Procuratore, chiede Emilio Randaccio, è più sorpreso o amareggiato? E risponde: sinceramente nessuna delle due cose. Sono sicuro che l'ufficio della procura di Milano ha svolto il proprio lavoro. Fino ad oggi sulla vicenda del rapimento a Buomari i giudici ci hanno dato ragione, partendo dal GIP che ha emesso le misure cautelari nei confronti di coloro che abbiamo ritenuto essere responsabili. Gli rimane però un dubbio, e allora il giornalista chiede quale. Risponde il magistrato: che da parte di altre istituzioni non ci sia stato lo stesso interesse, che si arrivasse alla conclusione che noi ci auguravamo. Questa sensazione, per chi ha seguito da vicino l'inchiesta, la si è percepita fin dall'inizio. Beh, sono parole assolutamente chiari. Cosa fa Repubblica? Scrive anche in retroscena con Federico Rampini, dicevamo, dalla strage del Cermis all'omicidio Calipari. Ecco perché gli Stati Uniti blindano i loro militari. Arriviamo a Dolce Gabbana, che è un argomento che tiene davvero banco. Oggi, dicevamo, da Giacomo Schiavi sul Corriere, e siamo a pagina 16 e 17 della pubblicità, pagina 22-23 pubblicata da Dolce Gabbana stessi, vi abbiamo già detto sulle colonne del Corriere, se è una notizia, e andiamo a vedere che cosa scrive però Gian Giacomo Schiavi. Mentre sfogliando il Corriere a pagina 12-13 c'è Prada, ovviamente, che sta realizzando un nuovo progetto in Galleria Vittorio Emanuele II a Milano. Ve la citiamo perché verrà citata dallo stesso Gian Giacomo Schiavi. Eccoci qua: l'autogol dell'assessore Arancione nella città che aspetta Expo. Domenico Dolce e Stefano Gabbana si giustificano a loro maniera, scrive Schiavi, attaccando per il modo in cui si sentono trattati dal comune, per la velenosità delle parole di un rappresentante della città alla quale vogliono bene, dicono essere grati per non passare come colpevoli prima di una sentenza definitiva. Virgolette: siamo nati a Milano, questa città ci ha dato tanto, ma anche noi l'abbiamo dato tanto, prestigio internazionale, posti di lavoro, sviluppo economico. E visto che l'assessore D'Alfonso è andato giù duro a proposito di evasione fiscale, ricordando di essere stati tra i maggiori contribuenti, di dare lavoro a 250 persone, di continuare a investire a Milano. Stanchi delle diffamazioni e delle ingiurie, scrivono i due stilisti. È Milano, scrive Schiavi, che soffre adesso, senza mediatori, senza arbitri, che si sorprende, si stupisce, che non riesce a trovare l'arbitro giusto per fermare la rissa e portare la pace. Milano, scusa, stavo scherzando, cantava una volta Roberto Vecchioni invocando luci a San Siro. Ecco, servirebbero le stesse parole per spegnere la miccia anche delle offese e delle volgarità prima che provochi un inutile incendio. Cosa fa il Corriere? Va a intervistare Beatrice Trussardi. Il tono dell'intervista lo dà il titolo: Beatrice Trussardi, Milano per la moda, fa 0, 0 e 0. E poi il dibattito a suon di tweet, cinguettio polemico, era appunto Comune di Milano, fate schifo, di Stefano Dolce. Flavio Briatore: e tutta la mia solidarietà, Comune di Milano, grande figura di M, puntini puntini. Davide D'Antoni: D'Alfonso ragione, dopo condanna in primo grado, giusto, in attesa di giudizio definitivo, sospendere concessione spazi pubblici. E poi ce ne sono altri citati. Siamo alla conclusione, e quindi vi citiamo semplicemente l'articolo che dicevamo sull'Avvenire, pagina 3, per quanto riguarda la situazione dell'immigrazione di lavoro possibile grazie alle politiche tedesche. Il mio ringraziamento va a Carmelo Lauricella per la parte tecnica. A tutti voi una buona giornata.